24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Pronto? Pronto? Senta, qui è un disastro. Da dove chiamate? Via Basile 19, L'Aquila. Venite a prendere al secondo piano. Dobbiamo incominciare a gestire il panico della gente, ma nello stesso tempo anche l'afflusso dei soccorsi. Per cui la prima cosa fondamentale è avere l'autostrada Roma-L'Aquila, Pescara-Teramo libera. Quando ci è crollata la casa. Capitano Soro, Guardia di Finanza, confermo appunto che la scuola sottufficiale dell'Aquila, che è poco fuori la città, non ha avuto grandi lesioni. Sto davanti alla prefettura, completamente solo il piano terra, diciamo, l'asse è stato raso al suolo. Prima cosa che dobbiamo dare, ascoltatemi, è questa prova di assoluta efficienza del sistema. Senta, chiamo dall'Aquila. Sì. Abbiamo una fuga di gas. Tutti i soccorritori che sono in arrivo, che arriveranno all'Aquila e nelle altre zone interessate, debbono poter avere la possibilità di lavorare immediatamente. È tutto il vuoto, tutto distrutto, è rimasto dentro il greco. Per ora all'Aquila noi abbiamo il direttore centrale del servizio emergenze presente sul posto, l'ingegner Basti. 45-50 mila sfollati è una cifra che potrebbe essere in questo momento corretta. Ho parlato con il sindaco Cialente già mezz'ora, tre quarti d'ora fa, gli ho dato un po' di indicazioni. E di fronte alla prefettura ci sono delle abitazioni dove ci sono delle persone incastrate, anche dei bambini piccoli. Se magari puoi dare la priorità a questa situazione. Era il 6 aprile del 2009, tutti ricordiamo quel violentissimo terremoto che ha distrutto L'Aquila. Ecco, oggi siamo arrivati a una sorta di nuovo terremoto per ragioni legate a un'inchiesta che ha raggiunto con una visione di garanzia il vice sindaco dell'Aquila, Roberto Riga. Massimo Cialente, buongiorno, sindaco dell'Aquila, sabato scorso si è dimesso anche lei. Perché si è dimesso, sindaco? Lei era una bandiera un po' dell'Aquila. Appunto per questo, buongiorno a lei. Buongiorno. Perché su questa vicenda, che è un avviso di garanzia al vice sindaco, sì, a un dirigente del comune, e si è visto che, come succede normalmente, ma poi la magistratura fa chiarezza, è un errore, hanno sbagliato, non c'entra niente quel dirigente, perché io l'avevo spostato da 9 mesi proprio per un fatto di trasparenza. Ma lei perché si è dimesso, signor sindaco? Scusi, intanto 800, un attimo, 800 2400 24 numero verde, 349-238-6666, gli sms, prego, signor sindaco. Guardi, io penso che la definizione di intelligenza è fare la cosa giusta nella situazione data. Sì. Sulla vicenda di un avviso di garanzia al vice sindaco, indubbiamente per una cosa molto per una tangente, e sì, per delle tangenti, sì, che anche sui giornali di oggi sono relative al lavoro che fa un pezzo grosso politico del Consiglio Comunale del centrodestra, che il 17 di agosto 2010 si dimette perché decide di fare il lavoro che all'Aquila stanno facendo tutti, cioè i broker per conto di aziende, ed apre una partita IVA. Si scatena una cosa per la quale l'immagine della città... Beh, l'immagine viene molto colpita, viene naturalmente. Colpita, per cui addirittura Primo Di Nicola, uno stento giornalista dell'Espresso, dice L'Aquila è una città di magna magna, eccetera. E questa cosa avviene mentre abbiamo uno scontro durissimo con il governo... Per i fondi. ...che aveva patteggiato delle cose, non solo i fondi, attento. Mi scusi. Ma lei ha chiesto le dimissioni? Lei ha chiesto le dimissioni del ministro Triglia, se non mi sbaglio. Ma io non le chiedo per la mancanza dei fondi, che è un problema di governo. È perché io, essendo un cretino in questo paese, ho sempre chiesto insieme ai miei collaboratori, noi abbiamo chiesto regole, perché fra qualche anno voi vi accorgerete quello che sta succedendo per mancanza di regole, voi stampa. E le regole dovevano essere fatte secondo i decreti delegati che Barca doveva fare. Vabbè, non è stato fatto nulla, quindi lei chiede al ministro Triglia, lei chiede... Ma no, scusi, io non chiedo più niente. Mi scusi. Sì, mi a dica. Questo punto esce un attacco alla città. Capisce perché io mi devo dimettere? Perché bisogna dimostrare l'Italia. Però lei ha detto ho sbagliato i miei collaboratori. guardi, ho letto, ho detto, questo, se sì, si dimostra che è vero, io ho sbagliato a scegliere i miei collaboratori, perché a differenza di tutti gli altri in questo paese, d'accordo? Io penso che bisogna dare dei segnali. Se mi hanno sbagliato, è giusto che io, per aver scelto un collaboratore, guardi, ne pago. In un paese in cui vengono assolti tutti i ministri che telefonano, eccetera, il Parlamento assolve. Vabbè, tutto. Io questo lasciamo... Però attento, attento. In questo momento il problema che io porto avanti, e mi rimetto per questo, perché io dovrei difendere la mia onorabilità. Se io rimanessi, difenderei la mia onorabilità. Ma è vero che lei ha avuto un problema, una causa anche con sua cognata per i rimborsi? Sì, questa è una grande vergogna ed è il motivo della grave responsabilità del governo italiano. E cioè, Enrico Letta, guardi, Enrico non c'è, Enrico Letta, però se cominciamo ad andare sul discorso delle responsabilità politiche, le spiego, mia cognata prende una casa secondo la legge Berlusconi. E la Fintecna, il meccanismo legale, le riconosce il diritto ad avere ripagato per 2.700 euro al metro quadro, perché aveva una casa molto prestigiosa in centro storico. Altrimenti, se fosse fuori al centro storico, le toccherebbero 1.700 euro. Io, Massimo Cialente, sindaco, nella riunione con il mio assessore alla ricostruzione, i miei tecnici, dobbiamo dare la definizione di centro storico. No, ma mi spiega la questione della cognata. Io confine e tengo mia cognata fuori per 5 metri. E allora cosa capita? Capita che questa cosa, perché su di me non possono trovare niente, certo. Venerdì sera esce su un foglio molto brutto che gira per la città, esce questo attacco a mia cognata. Il giorno dopo esce l'attacco sul Tempo d'Abruzzo, che parla di truffa, cosa non vera che è, ma soprattutto esce alle 10 di mattina sul TG1, la RAI del governo, e su Canale 5 contemporaneamente, la vicenda di mia cognata. Quindi io ormai so che questa cosa è stata preparata il giorno prima, perché a questo punto, su questa vicenda... Ma non ho capito il tema, scusi sindaco, non ho capito bene dov'è il conflitto fra lei e sua cognata. Qual è il punto? Il conflitto fra me e mia cognata è che mia cognata ha denunciato il comune dell'Aquila, noi ci siamo opposti, e non solo, ma il mio avvocato del comune, quando è venuto, ha detto: ma guarda che noi ci costituiamo contro tua cognata. Dico sì, si riunisce la giunta, io per ovvi motivi di legge. E ne discutiamo, poi per ovvi motivi il segretario generale verbalizza che io esco fuori, perché si tratta di mia cognata, ci consigliamo contro mia cognata, e l'avvocato dice, guarda, avvocato, sindaco generale dello Stato, del comune, e insulta mia cognata, la definisce ingorda, quindi io adesso vediamo, quindi se va bene, ho capito, vincerà mia cognata o vincerà il comune dell'Aquila. D'accordo, ma nel frattempo, per capirci, voi quanti fondi avete ricevuto finora? Noi voi dico ricevuto, per l'Aquila, sì. No, guardi, mi dica una cosa precisa, L'Aquila comune ha ricevuto allora di ricostruzione col contributo agevolato, col quale è stato possibile. Sì, quanto? Allora, 2 miliardi più l'anno scorso Barca ha sbloccato 985 quindi, miliardi. Quindi insomma più o meno 3 miliardi. 3 miliardi che avete speso? Insomma, guardi, per la ricostruzione privata, quella seguita da noi. Sì. Rimettendo in casa 40 vabbè, grosso modo mi dica, perché 3 miliardi e li avete spesi? Spesi impegnati, nel senso che sono partiti i cantieri che con questo scandalo che sta montando all'Aquila rischiate i fondi europei? No, io ho fatto un'altra battaglia, non ci sono fondi europei, ho fatto una battaglia che mi ha creato altri nemici, perché trovo le battaglie creano sempre nemici, lo so, purtroppo. Guardi, stamattina mia moglie alle 7 leggendo la segna stampa ha detto: la colpa è tua che hai litigato con tutti. E lei si attribuisce qualche colpa oppure no? Qualche colpa se attribuisce, la no? Colpa mia è politica, diciamo. Sì. E che non ho capito una cosa. Che cosa? Che qualche compromesso lo deve accettare. E quale compromesso si pente di non aver accettato? Io ho detto di no a tutti perché ero convinto che l'Italia avesse interesse che le cose fossero pulite, ma aveva ricostruito. Però lei la scorsa primavera, sindaco, lei la scorsa primavera ha restituito la fascia tricolore al Presidente della Repubblica. Quella è un'altra perché? Cosa che ha fatto arrabbiare tutti, perché c'era un patto sottoscritto. Guardi, la cosa drammatica è che Barca, che non può parlare perché sta in Patagonia, non si riesce a raggiungere, Barca venne all'Aquila il primo giorno di primavera, 21 marzo 2013, data che egli scelse proprio perché era simbolica, no? Venne, sottoscrisse l'accordo del cronoprogramma come ministro della Repubblica Italiana, venne e addirittura, guardi, lo schiaffo morale che adesso mi pesa. Sì, che nel suo siamo cassetto, in chiusura, sindaco. Sì, e non, purtroppo nella tasca destra portava del bergamotto e ci disse: ispirate un poco di bergamotto e vi tira su. Dopo di che si ricorda. Comunque, oggi detto, l'immagine, sindaco, siamo in chiusura. Allora, in questo paese che mi ha processato per un avviso di garanzia al vice sindaco. Sì, allora questo l'abbiamo detto. Adesso serve un servizio. Adesso cosa fa lei? Due parole perché devo andare avanti. Che cosa fa? Io le dico questo. Mi dica cosa farà? Mi dica cosa farà, sindaco? Torno a vita privata. Va bene, quindi nel suo futuro c'è ancora politica o no? No, ma che politica? Basta. Non c'è un sistema all'Aquila. Dimostrate, se volete bene, agli aquilani e all'Aquila che esiste un sistema sull'Aquila, grandi interessi economici, grandi interessi politici e accademici. Va bene, seguiremo la vicenda dell'Aquila. Grazie, sindaco, del suo intervento. Bene, grazie. Ed è il famoso Don Matteo. Sor Maria non fa altro che parlare di lei. Marcello, mi dispiacerebbe darmi qualche informazione sulle indagini. È ancora vivo, l'hanno colpito in testa. Però non ha documento, sappiamo chi è. Forse l'hanno sorpreso nel sonno per rapinarlo. Ci vorrebbe Don Matteo. Senta, maresciallo, possiamo scoprirlo anche senza l'aiuto del suo amico, eh? Avremmo fatto prima. Senta, lui sta a Cubio e noi siamo a Spoleto. Per cortesia, basta con questo Don Matteo. Va bene. Mi hanno trasferito. Sono il nuovo parroco di Sant'Eufemio. Che bella notizia, Don Matteo. Allora, benvenuto a Spoleto, Don Matteo. Grazie, capitano. La ferita che lei ha nel suo cuore verrà riempita dalla grazia. E la grazia poi diventerà amore. È la nona stagione di Don Matteo. Ha fatto ascolti record, quasi da finale di Sanremo, di Champions League, con il 31% di share, 8 milioni e mezzo di telespettatori, con un dato sorprendente. Che ha avuto un grande successo di pubblico, forse imprevisto, tra i 25 e i 45 anni. Ecco, professor Armando Fumagalli, docente di semiotica all'Università Cattolica, direttore del Master di scrittura e di produzione delle nuove leve di sceneggiatori, molti dei quali sono impegnati nella scrittura di Don Matteo. Ecco, qual è il segreto della sua scuola? Ma io credo che sia un segreto che va su due linee. Una è quella di cercare di italianizzare il meglio della scuola di scrittura americana, quindi cercare di aiutare a scrivere le cose con intensità, con protagonisti chiari, con obiettivi chiari, eccetera. Perché questa è la caratteristica della scrittura americana. Eh? Della scrittura americana, sì, quella di lavorare su conflitti forti, di avere che i personaggi abbiano degli obiettivi chiari, degli ostacoli, eccetera. Però c'è una seconda caratteristica che per me è anch'essa molto molto importante, cioè quella di ricordare agli studenti che anche e soprattutto perché lavorano per la televisione devono essere in profondo contatto con la realtà vera e più profonda del paese. E questo secondo me è una cosa che Don Matteo, la serie Don Matteo, è riuscita e sta riuscendo a fare molto bene. E infatti, cioè, Frassica ci diceva proprio che a lui il personaggio gli viene così bene perché lui lo conosce, quel maresciallo, e lo aiuta a tirar fuori che ha dentro. Esatto. E una cosa interessante che la gente magari non sa o non pensa è che effettivamente poi molti di questi autori sono autori giovani e che vengono da tante diverse parti d'Italia, per esempio diversi sono anche del nord Italia, lombardi, cioè il supervisore delle sceneggiature vive in un paesino della provincia di Bergamo. E quindi è a contatto, racconta la sua vita sostanzialmente. Esatto, è a contatto con un'Italia vera che alle volte invece viene un pochino dimenticata da da intellettualismi eccessivi, forse. Esatto, esatto, esatto, da intellettualismi eccessivi, assolutamente sì. Ovviamente questa è una cosa che non solo bisogna viverlo, questo contatto, ma bisogna anche saperlo raccontarlo. Mantenerlo, saperlo raccontare e cercare di non dimenticarlo, perché ovviamente poi quando si vive travolti nel lavoro uno tende un pochino a, come dire, a seguire un po' troppo quelle che sono magari delle mode del momento. Esatto, sì. Perché in questo momento, per esempio, nel mondo televisivo moltissimi vorrebbero copiare le serie americane, ma intendo dove copiare, per esempio, il fatto che molti personaggi hanno dei grossi fantasmi, delle grosse ferite dentro, che sono molto amareggiati, molto cinici, eccetera, eccetera, no? Mentre invece tanta gente non è così, non è fatta così, anche raccontare una parte anche positiva. Certo, questo va bene, ma va bene anche pescare nella radice. Ecco, ma io volevo farle una domanda sui dialoghi. C'è, secondo me, anche un salto di qualità nei dialoghi, molto in questo senso, molto più, se si può dire così, più americani, cioè più secchi, più precisi, intensi, ma anche, non posso dire, non sbrodolati. Esatto, esatto, esatto. No, è una scuola quella. Ma sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Anche qui, diciamo, è la parte, se vogliamo, migliore della scuola americana, europea. Insomma, chi scrive dialoghi bene sa che deve farli asciutti, non deve sbrodolare. E devo dire anche, se ci si fa caso, le puntate di Don Matteo non hanno mai dei cali di ritmo. E questo non è facilissimo da ottenere. Non ci sono mai dei momenti di stanca, non ci sono mai dei momenti in cui uno dice, vabbè, rischio di annoiarmi. Questo ma è un frutto... problema, è un problema di scrittura, di cast o di budget o di tutte e tre le cose insieme? È tutte... Allora, nasce da una capacità di scrittura, poi devono essere bravi i registi a girare, devono essere bravi i montatori a fare il montaggio, devono essere bravi quelli che lavorano in post-produzione a mettere o non mettere le musiche di dove vanno messe, quindi è un insieme di cose che si aiutano l'un l'altra. Certo, se la scrittura non è di qualità è molto più difficile, ecco, fare tutto il resto. Professore, insomma, avanza un partito di Don Matteo in Italia? Beh, c'è gente a cui piace Don Matteo e speriamo 8 milioni che di anche... persone, più di 8 milioni di persone. Assolutamente. Dopo 9 anni. E speriamo che anche questo successo di Don Matteo aiuti a lavorare in modo analogo anche su altri generi e su altre tipologie di racconto. Ecco, un'ultimissima domanda, sì, professore, ma c'è una leva di nuovi sceneggiatori che hanno il passo, il ritmo e la cultura per essere definitivamente internazionali? Io sono convinto di sì, quello che adesso ci vorrebbe è una nuova leva di produttori che però anche questa sta nascendo, e se ben supportati anche dai network e dai distributori, io, guardi, glielo dico così molto seriamente, penso che fra 10 anni il nostro cinema, la nostra televisione sarà molto più internazionale, molto più diffusa anche all'estero di quanto non è oggi, perché sta migliorando. Noi siamo molto abituati a piangerci addosso sempre, le cose non vanno, non è vero, il cinema negli ultimi 10 anni è molto cresciuto il cinema italiano, la sua presenza in Italia sul mercato internazionale, ma crescerà ancora di più, credo, anche grazie a queste nuove generazioni di autori e speriamo presto anche di produttori. Grazie, grazie professore, grazie, auguri del suo lavoro e complimenti. Grazie, grazie. Hai visto quante bolle? Ma sono belle queste bolle, fanne mille bolle. Scusi, è qui il corso di spagnolo? Sì, sta qui, benvenuto. Grazie, grazie. Accettavo il capitano Giulio Tommasi. Sono io. Il capitano Giulio Tommasi sono io. Anche lui. Ma come si permette lei di usare il mio nome e di spendere i miei soldi? Non volevo fare una gradita sorpresa. Starà andando in viaggio di nozze, ferma! Ma che cammino! Tua figlia sta andando a Roma per 2 giorni per un corso di aggiornamento. Non e lei si deve fare la strada sua. La strada è già fatta, non si fa la strada. La strada esiste. Signor capitano, tutto bene finisce bene, eh? Non è proprio così, però... Nino Frassica, l'alter ego di Don Matteo, si diverte ancora a interpretare il maresciallo Cecchini? Ma mi diverto perché ogni anno succede qualcosa. Stavolta sempre nuovo. Sono diventato nonno, quindi interpreto il nonno. Quindi, senta, ma sembra quasi che in Don Matteo tu metti insieme in modo naturale la tua vena comica, quella drammatica, con una leggerezza sempre nuova. Che cos'è che ti affascina di questo personaggio? Mi piace perché è uno vero, esiste, lo conosco. Io fino a 30 anni stavo in provincia, per cui li conosco. È un mondo che sai com'è, insomma. Sì, quindi li conosco, come si comportano, come sono alla mano, passo per passo. Ecco, ma dimmi una cosa, ma tu interagisci con gli sceneggiatori nello studiare i dettagli del personaggio? Sì, o no? Sì, certo. Molto? I colori sono miei. Alcune colori stupendi. Nei dialoghi sicuramente intervengo, so se lui usa o no un termine, conosco il livello culturale di Cecchini, quindi si muove e si comporta. Un po' faccio in modo che somiglia a me, in modo che mi venga anche più facile. Più certo. Mi somiglia, più è naturale, più ti viene fuori l'anima, insomma. Certo. Senti, ma con Terence il rapporto è facile? Il rapporto è facile perché lui è un signore d'altri tempi, uno che io ho frequentato tanti set, non ho mai visto un set così tranquillo, e il motivo è lui. Quando il capo si comporta bene, tutti gli altri sono seguono. In imbarazzo, se devono aumentare il volume, quando lui parla basso, quindi ci comportiamo, quindi io in tanti anni non ho mai sentito un urlo che non fosse da copione. Esatto. Senti Nino, ma aver cambiato la location ha portato valore aggiunto al racconto? Ma sai, noi in realtà di Gubbio, devo dire la verità, abbiamo fatto vedere ogni angolo, non ce n'erano più. Non c'è un centimetro quadrato che non abbiamo inquadrato, però quindi adesso era meglio cambiare. Però è uguale, wow, somiglia molto. Certo, beh, sempre Umbria è. Sempre Umbria è, poi i chilometri sono pochi. Senti, Matteo Renzi in un'intervista sul Corriere ha detto: noi non abbiamo fatto nulla ancora, l'unico Matteo che emoziona gli italiani è Don Matteo di Terence Hill. Beh, un successo più grande di quello era difficile, certo, un riconoscimento. Siete un partito, insomma, siete il partito numero uno d'Italia. Sì, facciamo parte della storia ormai. Che meraviglia. Allora, tanti auguri, grazie, Nino. Grazie, ciao, auguri, grazie, complimenti, ciao. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Pietrangelo, è la vittoria della comicità di provincia? È una vittoria già scritta, perché c'è una grande energia nella provincia. Diceva Simenon, me ne sono andato via da quei posti per raccontare i delitti che altrimenti avrei compiuto se fossi rimasto. E questo è proprio l'apice opposto, mentre invece c'è un fondamento di energia nella provincia che è fatta di comicità, è fatta di poetica, tant'è vero che le vicende francesi di questi giorni, quelle di Orlan, noi riusciamo a capirle perché abbiamo la grande provincia italiana che Piero Chiara descrisse benissimo, certo. Andrea Vitali ancora oggi descrive benissimo, i fratelli Conte benissimo mettono in musica, che è quella di avere un punto di vista particolare che riesce ad essere efficace, immediato, pieno, pienissimo, come quei bellissimi pranzi di domenica fatti in provincia, dove la gente per arrivarci ha sempre il dito mignolo a gancio perché porta ancora altri dolci. E tutto questo fa parte di un'idea festosa e forte che riesce poi a essere vicina alla gente. Alla gente. E quindi pescando lì si pesca una verità perché, sorprendente. Certo, perché chi se la racconta, se la descrive dai punti nevralgici d'Italia, sia essa Roma, sia Milano, non sa che poi in fondo c'è una grande provincia che nel frattempo fa le cose. L'abbiamo sentita anche l'altro giorno con l'ingegnere che ha tirato su la Costa Concordia. Ecco, Mario, grazie. Mario, insomma, in qualche modo questa grande provincia che esprime questi numeri spaventosi, perché sono numeri da finale della Champions League, fa impressione. Quando io dico un partito di Don Matteo, naturalmente è una provocazione, ma insomma però, c'è dentro un'analisi che manca sui nostri media. Sì, completamente, perché viene guardato tutto con la puzza sotto il naso, no? In maniera snobistica, cos'è questa cosa? In realtà bisognerebbe tornare alle origini, e cioè dire che il racconto è di per sé materiale politico. L'uomo è un animale politico, per cui alla fine tutto è politica. La cosa interessante è che c'è una sorta di triade: la Chiesa, il municipio, la stazione dei carabinieri. Questa certo, è l'Italia. Questa è l'Italia. La cosa altrettanto interessante di Don Matteo, secondo me, è il pubblico giovane. Infatti. Che voi sapete tutti che manca molto certo. Questo pubblico, e invece in Don Matteo c'è. Questo significa, molto probabilmente, che quel pubblico è alla ricerca di punti di riferimento. Esatto. E secondo me in Don Matteo c'è uno storytelling, cioè c'è un racconto, una narrazione che è fonte di ispirazione per chi vuol fare buona politica. Per chi vuol raccontare e fare, ovviamente. Questo è il punto fondamentale. Matilde, grazie. Matilde Bernabé, presidente della Lux. Abbiamo un minuto, presidente della società produttrice di Don Matteo. Giovani che guardano Don Matteo, giovani che scrivono Don Matteo, la linea editoriale qual è? Beh, noi abbiamo voluto rendere operativa la speranza con Don Matteo, perché in un periodo così complicato abbiamo pensato, ma questo da tanti anni, che far vedere che il male c'è, ma che anche chi ha sbagliato, chi può aver fatto male, può avere un'altra possibilità, e noi gli scriviamo come si potrebbe fare. E questo ti può permettere di dare un consiglio a te stesso, a un amico, a un parente, se appunto qualcosa gli va male. La prossima sfida? La prossima sfida sono i Medici, la famiglia Medici e il Rinascimento, con un grandissimo scrittore internazionale, però guidato da noi, lo scrittore che ha scritto i Tudors, però le linee guida gliele abbiamo date noi, italiani, che peraltro abbiamo vinto l'Emmy, che è l'Oscar della televisione, e che in Italia nessuno conosce, ma in America è famoso e importante come l'Oscar. Grazie. Mix 24. Brava già, dimenticata quella canzone malandrina, la radio in auto sotto le stelle accarezzavo la tua pelle. E questa oggi? Oggi questa, giusto per continuare su questa atmosfera che la provincia ci offre, Gli innamorati e la Marina di Giorgio Conte. L'ho scelta a proposito perché avevo in animo di fare una dedica, come si faceva una volta dalle radio libere quando si facevano le dediche. Sai a chi voglio dedicarla? Che bello. A Silvio Bartolotti, che ha rimesso in asse la Concordia, perché quel faccia a faccia mi ha colpito quella sua voce, quel modo di essere italiano nella semplicità di un'efficacia, quella di risolvere immediatamente tutto. Perché quando l'ho ascoltato mi sono ricordato di quando il vecchio entrava allo stadio e gli ateniesi dicevano: fate sedere il vecchio, fate sedere il vecchio, nel frattempo che gli spartani già si erano alzati e l'avevano fatto sedere. 10 minuti dedicati al sindaco dell'Aquila, 15 minuti dedicati a Don Matteo, grazie Minoli, uomo Rai, dice Marcello. Non è così, abbiamo parlato di un grande fenomeno sociale, spero che anche Marcello possa capirlo, e non c'entra niente il fatto di aver lavorato la Rai, cosa bolle in pentola. Chacun, c'è per me, dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. C'est notre cas. Ce sont des moments douloureux. Mais j'ai un principe. C'est que les affaires privées se traitent. Les affaires privées. Privées. Ni le lieu. Hollande. Les présidents Hollande. Cari amici, e cosa volete che vi dica? La linea del presidente è netta, molto alla francese. I suoi affari di cuore non si toccano. Però bisogna dire la verità, in Francia per la prima volta la diga è rotta, nel senso che a Hollande non è concesso e soprattutto non è stato coperto quel che era invece un segreto per Mitterrand e Chirac. Quindi c'è un cambiamento nell'opinione pubblica, ma soprattutto nei media, perché l'opinione pubblica dice che ancora al 77% dicono comunque sono affari suoi, sono privati. Segnalo la vera notizia a questo punto, è la svolta politica di Hollande, perché ieri durante la conferenza stampa, dopo aver vinto le elezioni con la retorica delle tasse, della supertassa per i ricchi e così via, ha cambiato marcia. Anzi, è tornato indietro, le tasse ha detto che le abbassa. E questo è un punto critico di svolta, perché significa che la sua politica ha fallito e infatti il gradimento è bassissimo. È il più basso della storia della Repubblica Francese. Legge per un presidente, quindi è un po' un problema. Legge elettorale. Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Vabbè, senti, la legge elettorale è ancora un punto fermo, che se ne dica. Verdini e Renzi si sono parlati, però in realtà l'incontro decisivo con Berlusconi dovrebbe essere a giorni, vediamo. Esatto. Senza l'accordo con il nuovo centrodestra, cosa succederà? Vedremo. Roberto, bravo, questo è il punto. Roberto Giachetti al telefono, buongiorno. Lei, buongiorno a voi. In qualche modo, se ci sarà, se è un po' l'eroe di questa legge elettorale, ha fatto un po' martire, insomma, comunque si farà secondo lei? Ci siamo? Guardi, io penso che gli ostacoli sono sempre tanti, però sono convinto che adesso tutti è difficile sottrarsi dalla responsabilità del farla, vuoi perché ormai è calendarizzata a differenza di quello che era successo al Senato e vuoi perché con le motivazioni della Corte Costituzionale... Insomma, bisogna fare questo accordo e chiuderlo in settimana o giù di lì. Assolutamente sì, lunedì deve essere un test in commissione, quindi, questo weekend sarà decisivo. Ecco, ma... le proposte di Renzi sono quattro, no? Proporzionali e bipolari, però sono ancora in qualche modo allo scontro. Chi la spunta? Ma io penso che la spunta Renzi, il Partito Democratico e tutti coloro che lealmente vogliono fare quello che hanno detto, cioè creare un sistema bipolare. Poi ripeto, le insidie sono molte, perché sappiamo bene che se sono 6 anni che stiamo appresso alle parole del fare una legge... Oramai non sono 6 anni, sono 20. Sì, no, sono 20. Anni del Porcellum, ha ragione lei. Poi con le riforme in generale andiamo avanti pure da 30. Sì, ma parlavo proprio della legge elettorale. Volevo dire, questo fare la legge Renzi-Berlusconi senza Alfano sarà possibile oppure no? Io penso che dobbiamo farla anche con Alfano. E se non c'è Alfano la si deve fare lo stesso, quindi il problema è che nessuno può porre ricatti, veti e condizioni, bisogna che ciascuno si predisponga per una volta tanto uno spirito che serva al paese, che sì, insomma, assolutamente sì. Va bene, grazie, auguri allora per il suo martirio comunque. No, ma che martirio, è una battuta. Anche la mia. E allora, Giovanni, ho un aggiornamento fondamentale. Dimmi. Sulla vicenda Hollande in diretta, te la dico. Dimmi. Subito, la Francia ha annullato la nomina della signora Gaillet, che è, diciamo, l'amante, la fidanzata, chiamatela come volete, l'innamorata nuova del presidente Hollande. Insomma, è stata annullata la sua nomina alla giuria dei borsisti di Villa Medici, Accademia di Francia, che a era stata Roma, appena a Roma. Fatta. Era stata appena fatta. Boom. La guerra continua. Arrivo con dei salamini, anzi, sì, più di un salamino. Abbondiamo. Punto e virgola, due punti. Sono messo lì a seguire le vicende di Forza Italia nel vedere se arriverà questo coordinatore unico, Giovanni Toti, che dovrebbe essere il nuovo leader, il nuovo capo di Forza Italia. Però lì il padrone di Forza Italia invece frena perché c'ha tutte quelle discussioni. Mi volevo soffermare su questo quando è arrivata ieri una notizia che Davide Faraone, responsabile del welfare del Partito Democratico, renziano, uomo della Leopolda, si ritrova a essere indagato in Sicilia. La vogliamo sentire quella musica che accompagna queste giornate? Ecco, volevo un'atmosfera degna della Leopolda, dove venne celebrato coi fasti dell'onestà, della pulizia, del decoro, del futuro, con l'auspicio di calci nel sedere a Vladimiro Crisafulli, perché in Sicilia c'è... Io volevo arrivare al punto, perché si era detto alla Leopolda dobbiamo essere belle, spacchiosi, freschi, giovani, onesti. Crocettiamoli. Insomma, noi li scrocettiamo, ma la vera notizia qual è? Che l'unica a non essere indagata è Crisafulli. Andiamo avanti, vai, con le bolle. Sai cosa pensa di voi il mondo degli affari? Pensa che 100 anni fa qui vivevate nelle tende, nel deserto, tagliandovi la testa tra di voi, e che tra 100 anni sarete di nuovo così. Quindi sì, a nome della mia compagnia accetto i tuoi soldi. Era un pezzo di Siriana. La cosa importante che si sta svolgendo in Medio Oriente è che si prepara il viaggio del Papa. Il segretario di Stato Kerry ha briffato, come si dice tecnicamente, il Vaticano sui piani degli Stati Uniti. L'intelligence europea ha incontrato esponenti del governo di Assad in Siria invece per scoprire le rotte dei terroristi che dall'Europa vanno a combattere in Siria. E intanto cose in Italia passano... Siamo un punto logistico, no? Punto siamo una logistico. Porta aerei, esatto. di questa roba qua. Mix 24. Che diavolo corre in Russia ogni 5 minuti? Sta acquistando delle proprietà lì? Adoro il posto, mi attira molto. È un tale casino. Ce la mettono tutta, nonostante i problemi. Quei poveracci vogliono essere solo come noi. Hanno un cuore immenso. È un'immensa ignoranza. E mantengono sempre la parola. Russia, caro Buttafuoco, a te cara. Ebbè, la strategia di Putin con i vicini è perfetta, possiamo criticarla quanto vogliamo, può apparire cinica, machiavellica, intelligente o no, ma Putin ha appena dato un prestito anche all'Ungheria, 10 miliardi di dollari. E quindi si sta ricostruendo l'URSS. Beh, la cortina di ferro fatta in altra maniera, no? L'Eurasia è il destino politico di questo continente. No, quando dico questo continente ci siamo pure noi. Guarda, è incredibile perché ha dato il prestito all'Ungheria, ha fatto lo sconto sul gas all'Ucraina e contemporaneamente ha investito attraverso un fondo per altri 15 miliardi di dollari in titoli di Stato. Bisogna dire la verità. Sta entrando in Medio Oriente. Putin è molto abile, ha una diplomazia di grande raffinatezza. E poi dà anche importanti contributi a Bari per la festa di San Nicola. Sì. Vabbè, quello poi facciamo, soprattutto. Mi concedi ancora un passaggio italiano, certo. Due passaggi in italiano. Sì, vai. Senti. Gioia, senza problemi vivrei, soddisfare qualunque. Renato Zero, senza problemi vivrei, i problemi sono enormi. Segnalo solo che all'ordine del giorno alla Camera ci sono un paio di interrogazioni davvero divertenti. Ce n'è una che vuole cambiare il fiscal compact, che il Parlamento ha votato senza praticamente discuterlo e che non si può cambiare in questi termini perché dobbiamo andare a farlo in Europa. C'è chi vuole il reddito minimo garantito, ma sa benissimo che è troppo caro e non sta ci sono i soldi. Sta dentro il Job Act, no? Mi sembra. Sì, ma... più o meno, non è ancora chiaro. Costa troppo, questa è la verità. Certo. E poi c'è chi vuole grandi misure per il contrasto alla povertà e ancora una volta non ci sono soldi, ecco perché ci avevamo questa sigletta. E infine segnalo, caro Giovanni, che noi abbiamo una situazione, visto che parliamo di bolle, in ebollizione nel governo, perché Alfano la sta rispondendo molto duro a Renzi, gli ha detto: ma il PD sta aiutando Letta o no? La competition nel Partito Democratico è ai danni del paese, rimpasto, deve risolverlo Letta, il mio interrogativo è se il PD vuole aiutarlo o no. Mi pare che le cose stiano procedendo piuttosto male. Oppure si va verso chiarimenti veri, perché è l'altro modo di vedere la cosa. L'altro modo è che il male può anche essere bene, esatto. Crisis opportunity. Non potete chiudere le bolle, perché prima devo fare una domanda a Pietrangelo. No. Vai Sara. Ma dica. Cosa ne pensi, anche se la notizia diciamo non è proprio freschissima, ma molto molto importante sull'home page del Corriere, cosa ne pensi dei 3 dromedari allevati alle pendici dell'Etna, che sono il primo allevamento in Italia? Questa è un'idea geniale, una nuova iniziativa imprenditoriale secondo te? È un portarsi avanti, tu pensa che noi siamo stati i primi anche in una... sai dove? Con la neve. La neve in Sicilia. Sì, la vera cortina in Sicilia. Ascoltate il grande Gino Astorina nel film di Ficarra e Picone. Sentiamo. Ascoltatelo. Guardate queste montagne inviolate. Stanno aspettando un nostro sogno. Abbiamo sognato di Kerdaci? Una località sciistica! Una stazione sciistica vuol dire alberghi, ristoranti, chalet. In una sola parola, lavoro per tutti. Ma qualcuno potrebbe dire... ma è 3 anni che non piove a Kerdaci. Bene, io rispondo, bastano 5. Sono 5 cannoni sparaneve. Allora, la cosa bella, sapete qual è? che salvificare. Siamo arrivati al fondo. All'inizio di tutto. Ma salvificare Valentino Picone l'avevano costruito in un gioco di fantasia. Ma la cosa è che poi si è diventando vero. No, diventò vera con un assessore del precedente governo regionale che veramente finanziò e trovò l'acquisto dei cannoni, non solo dei cannoni ma anche un corso professionale della regione siciliana per istruttori di sci. Ci sono nevicate a livello dell'Everest, più o meno, ghiacciai permanenti. Abbiamo il professore in collegamento, professor Simonelli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, che cosa ci racconta oggi? Allora, visto che voi avete parlato molto della televisione popolare generalista... Sì, molte critiche, ma anche molto consenso. Lo so, io faccio un dispetto a sé che faccio lo snob. Vada, prof. Faccio lo snob, perché ieri sera il canone non era concentrato ma diffuso, e la cosa mi ha fatto molto piacere. Come diffuso l'albergo. Sulle reti tematiche. Pensate che alle 9... la televisione italiana poteva sembrare una multisala de sé. Su Cult c'era, Cult di Sky, c'era Amour di Haneke, il film che ha vinto Cannes 2 anni fa e che ha suscitato molte polemiche, ma soprattutto molti, molti consensi, molta passione, molti amori. Mentre su Rai 5, contemporaneamente, una tematica che bisogna tenere d'occhio perché sta cambiando un po' la sua pelle e la sua natura con la nuova direzione, c'era un film di Jim Jarmusch, Broken Flowers. Quindi due film importanti degli ultimi anni, un pochettino snob se vogliamo, però insomma una prima serata di grandissima qualità cinematografica. Sta prendendo forma e qualità il Rai 5. Ma non è finita lì, perché su Sky Arte circola un bellissimo documentario, una biografia di un'oretta dedicata a Robert Capa. Grande fotografo. Molto si è detto, molto si è raccontato, ma questa biografia, per immagini ovviamente, conteneva anche delle testimonianze inedite o comunque poco note in Italia. Ecco, quindi ancora televisione colta, un po' snob. E invece, per riscattare questo mio snobismo, faccio l'ultima segnalazione. Pop. Ieri sera mi è sembrato lodevole anche la scelta di Rai Premium, che è una rete che in realtà trasmette delle repliche sostanzialmente, perché ha replicato il programma di Massimo Ranieri, che sabato sera, a sorpresa, sogno e sondesto il titolo, a sorpresa ha contenuto lo strapotere di Maria De Filippi. Voi sapete che il sabato sera da anni è critico per la RAI, perché Maria De Filippi è stravince con un grande De Gregorio ospite. Sì. E soprattutto mi incuriosisce, mi appassiona questa cosa, perché è una mia vecchia teoria, poi discutibile come tutte le teorie, in particolare le mie, che la televisione fa bene, lavora bene, quando attinge al teatro. Questo nasce di lì, però insomma diciamo c'è anche un suo specifico. Ma lo specifico della televisione spesso rischia di chiudere. Professore, un attimo, scusi, vedo Mario Seghi che esulta. Cosa è capitato? Le cose meravigliose nel campo della politica. A proposito di teatro, Alfano, 2 punti. Se prevale l'arroganza di Renzi, noi diciamo stop. Il pentolone del governo sta bollendo. Posso, a proposito di teatro, sempre al volo? Professore, meraviglioso, sempre su Rai 5, la riproposizione di Buonanotte Bettina, una meraviglia. Allora, teniamo d'occhio Rai 5. 20 secondi, professore. No, allora, commentavo, come si direbbe in una radiocronaca, colpo di scena, no? Perché questo è un colpo di scena. Oppure clamoroso al Cibali, prof. Vedo che è preparato. Grazie, professore. Sono i fondamentali domani, della cultura. A domani, oggi, a cura di Marina Milone, la storia, andrà in onda la storia dopo il telegiornale e dopo il giornale radio, la storia della vita di Don Zeno Saltini e della sua utopia diventata realtà, la comunità di Nomadelfia.